assomigliano tutte, cioè sono state stilizzo, tu vai a guardare la stessa ditta, non cambia niente. Il latte che lo fa la Sterilgarda. Io prendo sempre quello di Arborea perché è il migliore, mi fido di più perché è l'azienda più seria che ci sia attualmente. Là ci sono tutti i bagliacci. Sì, lo dici tu. C'è il latte che prendo io che è sardo lo stesso, ed è buonissimo. È tutta una questione di mentalità. Quello che prendo io si chiama Isola, non so che cosa, ed è sardo. Arborea è Riccio. Cosa? Arborea è, lo fa Arborea quello. Isola. E tu vai a leggere e hai fatto l'Arborea quello lì. Io prendo quello lì, un bel buono, ci sono i quattro muri, è sardo, e non è latte di fuori, che poi è mentalità nostra, anche il latte di fuori non sarà schifoso, non lo mangeranno, anche loro non mangiano cose schifose, tanto il mangime glielo danno anche qua, ma chissà di credi che li allevano solo all'aperto qua, li danno anche mangime. Però gli altri fanno dei giochetti strani, tipo la foto è stata scoperta, sì, a Cagliari, un po' quello degli giochetti strani, l'Arborea non li fa, cioè quei giochetti strani non li fa perché non gliene frega niente. Attualmente l'azienda più seria, là ci sono cigarriati, infatti dai derivati di quella roba fanno i cosi, fanno come si dice, fanno anche i cosi per le creme, li dà le, perché è il miglior latte che c'è in giro, capito? Per dire, la Sterilatte l'ha comprata Arborea, producono anche qua a Sassari Arborea. Sì, è buonissimo, no, ma non va, cioè, è meglio che si facciano le cose serie, no, carriacci, per carità, ma no, anche quando è successo quel casino, cioè, loro erano i più, cioè, diciamo che erano i più puliti. Parma latte che faceva bei casini con latte. Sì, hanno scoperto anche la Pop, hanno scoperto. Latte cinese. Qual è il latte cinese? No, per dire che alcuni fanno queste furbate, no? Lo importano da paesi esteri e dicono che è latte sardo. Magari dalla Cina pure mi latte. Perché l'olio extravergine che si comprava per sardo non compravano le olive da fuori, non ci avevano produzione, la compravano da fuori, macinavano le olive di fuori. Vabbè, poi ogni paese ha la presunzione di dire che ha le cose migliori. In Sardegna diciamo così, in Alta Italia diranno lo stesso, in Francia diranno lo stesso, cioè ognuno ha la presunzione di dire che la propria roba è la migliore di tutte, ma vabbè. Ma appunto, io per dire, tu lo sai benissimo che andavo a pescare e a volte andavo anche al molo, quando non avevo voglia di stare in spiaggia me ne andavo al molo, lo sai le volte che io ho visto dall'Olanda arrivando camion pieni di maiali vivi e poi li macellano qua e dicono che sono sardi, dall'Olanda li portava. Sì, certe volte anche dall'est Europa, Romania, quel posti là, ho sentito che si dice almeno che questi market a prezzi buoni, che ne so, Lidl, Eurospin, non so chi in dettaglio esattamente, tutta questa carne sia carne che arriva dalla Romania, e qualcuno dice sempre chissà in che condizioni igienico-sanitarie l'hanno macellata questa carne, chissà come l'hanno conservata, vabbè. Porcherie ne fanno anche in Italia, anche i ristoratori, certi ristoranti, vedi, delle cose da fantascienza, infatti quando li beccano poi li chiudono in locale. Vai Anto, vai Gianni. Sì, è così, molti sono furbetti, sono. Ma poi io dico, ma perché non aumentiamo più le produzioni qua e li mandiamo a cagare a questi qua che vengono da fuori? Perché qua per dire se produci più latte ti mettono la multa, ecco perché sono delle leggi di cavolo. Se tu produci più di quel tanto di latte per dire ce lo devi multare perché ti mettono la multa. Ma cazzo, mai sbagliato, cioè dovrebbero, cioè l'Unione Europea dovrebbe andare a quel paese in già mai capito, dovremmo produrre tutto noi, dovremmo produrre tutto noi, perché ci sarebbe più lavoro, invece ce la stanno mettendo nel di dietro questi, come si chiama, questi macchi di catena. Sì, sì, l'Europa, una fregatura questa storia dell'Europa Unita, eccetera. E... niente, me ne sono dimenticato. Vai Gianni. E tanto gli altri paesi fanno quello che vogliono, sa che se siamo l'Europa Unita. È tutto magna magna, per carità. No, io la carne adesso la sto comprando al centro carni, mi trovo molto bene. Ho preso la carne di cavallo con ogni avvettina, sembrava tu, sembrava un lenzuolo a quanto era grande, belle, tenere, un sapore così buono con le fettine, ma veramente buona, la carne è fresca perché ne vendono un bel. Poi mi forniscono le macellerie, immaginati tu. E vi compro anche il cuore per Tyson, perché mi sta piacendo il cuore. E lo pago a 3 euro il cuore al chilo, 3,50 euro mi pare. Prendevo i petti di pollo a casa e costavano a 16 euro. Quando andava bene erano 6 euro, proprio quando erano in offerta, se no 10 euro. Capa, ma me l'hanno detto, e poi mi hanno detto che la carne di cavallo c'era buono, quello di Via Grazia dell'Etta, mi hanno detto veramente buona, mi hanno detto, quello su in alto, un pochettino in alto, dai. Anto lì la paghi molto meno, io con 30 euro l'altro giorno ho comprato un cuore intero, me l'ho fatto fare a fettine, poi me lo metto in freezer, quando mi serve per te se lo tolgo, io non ne mangio, però a lui gli do quello lì. E poi ho comprato fettine di cavallo, ho comprato capocollo, ho comprato la salsiccia, e un po' di spezzatino, mi è venuto tutto 28 euro qualcosa, dai, quasi 30 euro, ma si può comprare, se per una macelleria esce un conto allucinante. Me l'hanno detto che, cioè, che è un buon prezzo, cioè, che molti vanno lì e si fanno la provvista, comprano un sacco di roba. Poi c'era la carne di vitello, le fettine di vitello a 9,90 euro, costava 13 euro, nati lunghi, loro lì a 9,90 euro, erano in offerta, perché se no magari sono a 11, a 12, però non mai come le macellerie. Sì, sì, lo so, lo so. Ma me l'hanno detto che lì si compra bene, ecco, un pochettino fuori mano, però già... Già si può andare, dai, se uno si fa una provvista e via. Vai con la tua bicicletta motorizzata e cosa fuori mano? Ti vai una bicicletta tranquilla. Lo faremo, carichiamo tutto nello zaino e è fatto. Infatti, una volta che vai, poi te le metti in freezer, quando ti servono le togli fuori, io faccio così. A me mi durano anche 2 settimane, cose così. E c'ho sempre carne, anche se per le gente c'ho la provvista, quindi non mi trovano mai senza roba, capito? Beh, ma che io ho il freezer molto limitato qua. E un pozzetto ci vuole anche tu, anche io sono così, però ci vorrebbe un pozzetto, io lo sai cosa faccio, la compro, poi la metto in quei sacchetti per alimenti, la metto dentro lì, e poi le metto dentro un vassoio, le metto tutte quante così messe bene, le tolgo una a una, di modo che poi non devi scongelare 2 o 3 alla volta, e tolgo una a una. Ah, è un numero buono il bozzetto, no? Non ci sta. Oh, oui. Tanti, chi è? Ui, chi è? Buonasera. Era già. Oh, non l'ho riconosciuto. Cerca di vedere avanti, chi è? Avanti. E che lo vedrò va qui. Arriviamo a Marcosetti, ma arrivi ai nocchi. Avanti Marco, Marco Condor, avanti. Lei anch'io qua a Pozzetto non avremo posto. Invece molti che conosco ce l'hanno il Pozzetto, come? però io non sono per accumulare troppa roba, capito? Già il freezer mamma lo riempie più del dovuto, è stipato, però preferisco comprarla e consumarla entro breve, anziché... Poi vabbè, cioè noi in famiglia nessuno era abituato a avere il pozzetto, qua la roba si consumava, se ne prendeva meno e si consumava prima, c'era più ricambio, diciamo, dai. Sì Marco, ma tu non puoi andare a prendere niente ogni volta, ma pigliare due fettine da poi tornare ogni volta, ce li spendi in benzina poi alla fine. Vai una volta, ti fai la provvista e poi la blocchi fresca la carne, non è che te la mangi buona, perché il ghiaccio la blocca. Sì, sì, naturale, sì. No, per due fettine no, poi uno fa una spesa un po' più grande. Già è comodo, magari un pozzetto piccolo, però non di quelli enormi, c'è gente che si è pozzetti che ci stanno due persone dentro. Oh, un amico mio ce l'aveva la data, ha fatto male, ci ha messo un frigorifero a posto del pozzetto, no, io ce l'avevo, vabbè, poi è andata come è andata e vabbè, adesso non ce l'ho più, però me lo dovrei ricomprare, c'è anche lo spazio per metterlo, a fianco al frigorifero c'è lo spazio. Guarda che ci sono quelli, ce ne sono, ne ho visto, 120 euro, 140 euro, dipende quanto lo vuoi grande. Ci ha preso un amico mio da poco, da MD, gli ha pagato 149 euro, ma bello però me. Ma io lo voglio a basso consumo, non mi interessa a me averne uno che consuma una cifra, capito? Mi interessa uno che abbia un basso consumo, quello a. E beh già, no, è a più, non ne possono più fabbricare di quelle. Vabbè, comunque, piccolino mi va bene a me. Perché sì, la roba per me ci sta, però se vuoi mettere qualcosa in più, tipo d'estate, che prendo molti gelati io d'estate, torta gelato, questo, quell'altro, quando viene gente, la offri, no? La offri, no? La poi se non vedi niente me ne mangio io. E cosa di biglie? Un negozio di biglie. Allora io ogni volta che vado compro ghiacciuri, pinguini, poi cosa compro, i cornetti, i biscotti gelato, sempre a scatole, ti parlo, e poi una torta gelato, perché se viene gente almeno è qualcosa da offrire d'estate, con un gazzo che vado. E poi me ne mangio 50 di bubu. Non riesco a trattenermi, con i gelati io sono micidiale, ben sbrano. Ah, da bravo, grazie, che parlo diabete. Lo so, d'estate però bevuti, d'estate col caldo a me mi gribba. Lo so che non li potrei mangiare, però magari mi limitano altre cose e mangio i gelati. A tu. Tanto per caso, crepi di caso, voglio vedere se il ghiaccio non ti lo mangio. No, non so, non mangio tanti gelati, io ti dico la verità. No. Sai quanti voci in casa, di sempre mangiando i gelati, io no, non è toccato. Marco, e tu? Io non li ho più presi da quando è passato il caldo, i gelati, però pochi, vabbè, perché il freezer anche c'è, è quasi sempre stipato, non ci sta quasi nulla, quindi prendiamo 4 coppette alla volta e boh. Io però sono più per svuotarlo e mamma invece sempre accumulando. Consuma la loro roba, se no ci troviamo i dinosauri, in fondo ci trovi i dinosauri con gli altri. No, io la consumo, prima di comprarne un'altra, quando vedo che sta per terminare vado e la compro, però. E poi quella nuova la metto sotto, quella vecchia la metto sopra, e bisogna anche sapere giostrare le cose. Poi ci devo buttare roba anche patate, residui di patate fritte, quelle congelate, c'è più ghiaccio che patate, quella devo tutta far fuori. Andrebbe sbrinato, la verità, perché c'è un po' di ghiaccio in più sulle pareti e prende posto anche quello, ti riduce la capacità del freezer. Ok, vediamo se Luca è riuscito a fare il mirroring dello schermo. Il mio è autosbridante. Marco. Diciamo che averlo avuto a me mi deprime. Devo averlo sempre in piedi. Certo che ci sia lo spazio a mettere roba, però qua è a filo, proprio è a strozzo, che cavolo. Sì, addirittura, questo è l'MB più 5, però messo a 7 spinge un po' troppo, non posso respirare che si sente zocco. Meno male che me ne devo andare alle 8, mi. Vabbè che il film verso le 9 inizia, qualsiasi film sia, 9 e mezza. Sì, ma poi questo televisore, sempre attaccato al televisore, siamo, o cellulare o televisore? Vabbè, adesso fra poco mi preparo e vado. Quello lì ancora non si è lamentato, si sarà addormentato sicuramente sul divano. Solitamente si lamenta a quest'ora, ha visto che stavo parlando e... Sai cosa fa? Come sente? Beh, io sto chiudendo, si alza dal divano e viene da me, capisce che sto chiudendo. Si ricorda il suono, ha associato il suono all'uscita. E qua c'è la gatta addormentata, vediamo, aspetta. Proprio drumida a sasso, E adesso c'è anche un po' di freddo la sera uscita, bisogna coprirsi bene a chi tenga il careggio. Poi fra poco cambia l'orario, quando è il 24 notte o il 29, non mi ricordo proprio, deve essere un sabato, tra sabato e domenica, però non so quale. Io aspetto sempre che lo dicano, quando lo dicono lo cambio. Andate, raga, io adesso vi lascio, dai, che vado a portare giù Tyson, se no quello lì poi alla fine si era vazzinato. Di solito scendo sempre alle 8, ma oggi mi sono sentito un po' di più. Va bene, dai, buona serata, correti per me, ci sentiamo alle prossime. Ciao! Ciao Gianni, alle prossime, sentiamo, buona passeggiata con tutto. E non mi ero accorto che le gatte sono due, una è sulla poltrona, una è sul divano. Un dormitorio, ci manca che mi addormenti io adesso qua. Vai Anto. Papà, buonanotte, buona serata, dai, porta il cane. E buonanotte se non ci sentiamo. Comunque a me l'orario mi si aggiorna da solo. Luca non ha ripreso, forse l'ha preso con quella roba lì. Allora, il mirroring dello schermo io con cosa l'avevo fatto per vederlo sulla TV? Col Chromecast di Google Chromecast, però risultati pessimi. No, molto meglio usare, allora, proprio il sistema operativo del televisore per vedere roba streaming. Vabbè, ok. Cappa, ma devo guardare la roba streaming, no? Sì, qualche telefilm così, un po' Oma Uma. Vabbè, con serpentoli. Eia! Intesa la mamma, eia! Ti volevo dire una cosa, ma la ringo a te cosa ti faceva? Ti entrava acqua e impattibile. Alla Ringo mia? Sì, allora lì c'è stato un problema di impermeabilizzazione, e c'è stato un punto che non è stato isolato bene con l'autoagglomerante, è entrata acqua lì e dopo un anno andava sempre peggio l'antenna, abbiamo trovato un malloppo tra i due elementi, no, uno infilato dentro l'altro, una specie di schifo di mucillaggine tra ossido di alluminio e ruggine fatto dalla fascetta, che nonostante fosse acciaio inox si è arrugginita, e c'era tutto un impasto di schifo di ossido, ruggine, e perciò non conduceva più, no? Non conduceva bene. E poi quando pioveva la situazione peggiorava ulteriormente, Antò. E in più si era mollato lo stilo centrale, ma visto che c'è un pezzo di tubo, c'è quell'isolatore di plastica nera, quell'anello nero, dove si infila il radiatore, no, lo stilo radiatore, dai, l'antenna vera e propria. lì si era mollato e rischiava anche di cadere nello stiro. Era tenuto quasi dalla spirale, perché qua il vento, il maestrale che viene da nord-ovest, qua me lo becco in pieno, qui non c'ho palazzi che mi schermano, quindi ha preso un bel vento quell'antenna e perciò si è mollato quell'isolatore, si è scollato lo stilo, mi hai visto com'è incollato, c'è una specie di o silicone bianco o resina, non so cosa sia. Adesso vediamo cosa fa questa, quanto dura. Ma tu l'hai piazzata così? Cioè ci hai messo le fascette, l'hai piazzata o gli hai passato l'autoagglomerante in tutti i, come dire, tra uno stilo e l'altro, tra una giunzione e l'altra? Allora, adesso l'ho fatto io. Ci ho passato lo stress con le fascette bene e ci ho messo il nastro isolante. E vasellina da tutte le parti. E io invece vasellina non ne avevo messo, vedi? Perché pensavo che tanto, ho detto, qua come viene il sole, il calore estivo, la scioglie, anche se passa di vasellina la scioglie tutta e tende a colare via. Invece quest'antenna qui l'abbiamo isolata veramente bene. Tutto dalla punta fino a giù, dallo stub di taratura, passato prima l'autoagglomerante, bello teso in modo che stringa bene, poi per tenere fermo l'autoagglomerante, per dargli il tempo di aderire bene, il nastro isolante pure, tutto, anche il PL, tutto isolato. Cioè dove c'era il rischio che entrasse acqua l'abbiamo tutto stagnato, se no è un macello. Questa è un'altra antenna, questa è la Energy 5 ottavi. No, già la conosco già. Io gli ho messo, allora, da tutte le parti dove ne stavo il palo, cioè dove ne stavo il petto, gli ho messo tutta la vasellina in giro, gli ho messo una isolante e vasellina, una isolante e vasellina, ma no, non dovrebbe andare a problemi, perché io quella là ce l'avevo neanche un mese, vabbè, forse non ce l'avevo neanche un mese quella là. Gli ho messo la vasellina, ha piovuto, non gli ha fatto niente, sono andato tutto gurugi in mano, cioè, come l'ho messo è rimasto, vuol dire che funziona. Eia, sì, poi bisogna vedere quanto dura anche questa, cioè la vasellina io penso col caldo, con la prossima estate magari tende a colare via, capito? Da un estremo all'altro, il freddo dell'inverno, vabbè. Comunque la mia, pensa la mia Ringo, dopo un anno l'ho tolta per disperazione, e invece questa ce l'ho dal marzo, aprile, maggio, dal maggio del 2014, quindi sono sei anni e fruscia, sei anni e qualche vari mesi, sei anni e mezzo, dai. No, la tua è proprio andata a mare. È troppo vento qua, poi l'avevo montata alta, avevo messo il palo da 6 metri e tanti errori sono stati fatti di quell'installazione, ci devo pensare meglio. E poi quanto dura amianto? Questa è economica, cioè non è economicissima, però non è una mantova, diciamo, dai, è più leggera, un po' più sottile, però essendo anche più sottile offre meno resistenza al vento, può darsi che sia pari la cosa, capito? Rispetto alla mantova, è più spessa come materiale, ma è più grande, vabbè, come va a me? Ma io non ci credo, secondo me va bene quella. Ma sai, per fare una prova comparativa bisognerebbe mettere un'antenna sul palo e provarla, chiedere i controlli a tante persone, no? Nella stessa serata se possibile. Togliere quella che hai provato, mettere l'altra sullo stesso palo, quindi stessa altezza, stesso cavo, stesso baracchino, stessi watt, e provare a chiedere i controlli e vedere i segnali che si ricevono, così si può capire veramente la differenza. Capito? perché tanto la sposti di 2 metri, anche se ne provi due con due pali diversi, la sposti di 2 metri e cambia la ricezione. Dico, è la prima volta che l'avevi messa, pompava, sì, andava bene. Ma la Ringo, ti riferisci alla Ringo? Sì. Oddio, cioè Sassari la coprivi, Sassari dintorni, però ti dico una cosa, ti ricordi Sandro di Polo Torres, no? Che aveva una posizione buona lui. Allora con la Ringo ero in mezzo al QRM, non mi copiava, non riuscivo a copiarmi, ero uguale al QRM. Invece con questa 5 ottavi mi copiava, liscio sempre, 4 watt, niente lineari, sempre le prove con 4 watt. Cioè sono passato dal non essere copiato della Ringo a Sandro all'essere copiato, capito? Metti che siano due Santiago di differenza, comunque vabbè, guarda, tu adesso usa la prova, non ci stanno problemi, per città se ne d'avanzo, tanto al produttore se non vede più nessuno. Capito, siamo bene o male, Sassari oppure Borgate, i Punti, tutte le zone limitrofe a Sassari le copri, quindi problemi non ce ne stanno. Capa, no, ma penso che a Porto Torre si arrivo, sicuramente arriverò anche a Muro, cioè, nei paesi, da un pochino, bisogna provare quando entra a Muro, a vedere come arrivo. Eia. A proposito, stavo notando, l'altra volta mi ha dato un controllo coso, chiodo arrugginito, no? Però era un segnale fuori scala, cioè se lui a me arriva a 9, no? 9, con tutti gli apparecchi, con tutti quelli provati, e lui mi dava un 9 più 20, non può essere veritiero il segnale. Probabilmente con lo Smitter sta segnando troppo. Cioè io proprio non posso arrivare con 4 watt a Muros 9 più 20, non esiste. Cioè arrivo a Claudio 9 più 30, ma non posso arrivare a Muros 9 più 20. Quindi con lo Smitter che usava lui, almeno uno di quegli apparecchi, era troppo abbondante di segnale. Non è assolutamente veritiero. Ma potrebbe. Bisogna vedere come arrivi, io non lo so questo. Potrebbe anche essere 9 più 30, metti 20 dB di meno, non è che Muro se sia tanto lontano, potrebbe anche succedere. Sì, sai cosa, per esempio se tu c'hai un'antenna di tipo simile, tipo 5 ottavi, i watt sono gli stessi, in teoria no, come arriva lui a te, tu a lui, cioè se uno mi arriva a 9, grosso modo io dovrei arrivare a 9 a parità di watt, no? Sempre parlo con antenne simili, a grandi linee, però una differenza così abissale non è possibile. Io, vabbè, poi bisogna fare delle prove dettagliate con altri apparecchi, insomma. Capa, bisogna fare delle prove, sì. Bisogna vedere quanto tu realmente arrivi lì. Comunque 9 più 30, abbastanza forte come segnale da Claudio. La Energy funziona benissimo, funziona. Ah, ma 9 più 30 stai dicendo Claudio Sparviero? Sì. Io da lui con, allora, ti spiego, 4 watt del baracchino, poi c'è un filtro anti-TV speciale, che non è ZG, che mi ruba un watt. Praticamente ho 3 watt utili qua, capito? 3 watt sono reali. Poi io ho sempre questo cavo lungo, molto lungo, che un po' di perdita me la darà. Quindi watt sono 3. Poche volte metto l'antenna diretta, c'ho sempre il filtro inserito, per scrupolo, per non avere problemi, casini, capito? Sì, non è facile, io qua non ne faccio, ho le antenne vicino, con questa ancora di meno, non disturba nessuno. Anzi, se lo vuoi sapere, Anto, avevo fatto la prova opposta, ho cercato, io ho due antenne TV, no? Una su e una giù. Ho cercato in tutti i modi di fare TVI. Ho provato con l'amplificato, così e niente. Ho tolto il filtro, ho provato lineare, niente. Lineare più amplificato, niente. Ho controllato praticamente i canali dall'1 al 55 o 65, non mi ricordo, che poi sono quelli che guardiamo di solito. Nulla, in nessun canale, anche lasciando il PTT bloccato così, no? E magari mettendo una radiolina per dare un po' di audio. Niente, guardavo il canale, niente squadrettamenti, niente di niente. Capito? No, non riuscivo a fare TV alla mia TV. E quindi probabilmente a nessuno. Non è fa TVI perché le antenne sono alte e quindi supera e non fa TVI. Io non ho più fastidi, prima c'avevo quel rumore, adesso non lo sento più. Meno male, cazzo. Io ho bevuto un po' d'acqua perché ne avevo bisogno. Luca, hai risolto la curiosità? Ci sei, Luca? Via. Ci sono, sto mangiando, Marco. No, non ho messo da parte. Praticamente questo hub o ci vuole il telecomando suo, boh. Non lo so. Non mi aggiorna questo hub. Beh, adesso me lo ordino da internet. Sto volando adesso qua. Network. Setting. Status. Allora, ripeto, il televisore era rotto perché c'erano i LED rotti e adesso funziona tutto, non è un problema del televisore, la parte che è nuovo l'hanno buttato perché mi stavo che non funzionava più, cioè si sentiva, non si vedeva, poi me l'ho sistemato. È fatto bene, quindi nemmeno il mirroring ti ha fatto dallo schermo. Io sai con cosa l'avevo provato il mirroring, cioè dallo smartphone alla TV col Google Chromecast, con l'affare piccolino a tondo che attacchi alla presa HDMI, però la qualità era pessima, infatti era molto ma molto meglio usare Chromecast senza il mirroring per guardarti la roba online, YouTube, tutti i canali, capito? Allora, sono riuscito a connetterlo con il programma che mi ha attribuito Luca, quello screen mirroring, con quello lì sì, praticamente l'ho connesso col telefonino, si è connesso, poi mi sono messo YouTube e mi stavo guardando Mr. B poco fa. Ah, quello te lo fa però, eia, però nel mio caso era di cattiva qualità il mirroring, perché, aspetta, dove l'avevo letto? Mi pare che per fare un buon mirroring ci vuole un wifi a 5 giga, c'ha più banda passante, non so, ha meno portata, no, il wifi a 5 giga, però ha più banda passante, va bene per queste applicazioni video, no, mirroring, roba del genere. E vabbè, io, anzi ti dirò di più, il wifi di casa non mi funziona nemmeno più, quel modem di Link che avevo, boh, morto, non, cioè si accende ma non riesce a connetterti da nessuna parte, boh. Ma chissà che è successo, uffa, rotture di balle, queste cose elettroniche, amico. Garusa. Sì, aia, bene, ma se tu parlavi io sto masticando. Poi cercare se non fanno le mani. Dea, vai a cuccia, ti ho detto, vai a cuccia, muoviti. Su quelle per non prendere le balle. Poverino. Come diceva qualcosa, picchialo con la pompa. Poverino. Un po' mi dice in terra, un po' mi dice sulla traversina. Boh. Anto, dimmi che avete parlato in due, riprendi Anto. Ho detto di non picchiarlo, poverino. No, posso fare su di voi da allora tu. Cazzo. Naturalmente, tanto ho detto sempre scherzando, ci mancherebbe. Ah, bella, picchialo con la pompa. Poveraccio. No, a toccare gli animali no, per carità. Alle volte sono meglio degli umani. Lo so. Anzi, il più delle volte sono meglio delle bestie degli uomini. È vero, hai ragione, hai. Molte volte ci sono persone che rompono solo le palle, basta. In merda. Come chi è quello che ti metteva la portante, Anto, al latte dolce? Ma chi era, poi si può dire, è meglio non dirlo. Dizzi di greca gagliata. Ma è strano, arriva a fondo scala, ma va me buono, non va me buono. Ma infatti lo sentivi solo tu, noi non sentivamo nessuna portante, doveva essere proprio attaccato a te magari con un portatile, un antennino, boh. E allora, se buoni a girare le balle, se buoni a... Carità che persona, ignobile, ma non mi fate più nulla, non mi fate, manco si ammazza. Beh, la zona è diversa, vediamo qua. Notizie, mamma mia, sto temendo questa storia del Covid. Mamma, i turchi, sempre cattive notizie poi le mettono, capito? Lo so, hai ragione. Voglio andare. Dai che vi saluto, che sono stanco, cavolo. Domani a mangiare sono un buco. Dai, buonanotte a tutti, ce la risentiamo alle prossime. O domani o alle prossimine, ciao ciao, che domani è dura, domani o Giulia. Ehi Anto, io forse devo andare, dove devo andare? Ho il conti, adesso non mi ricordo, devo controllare la lista. Che palle, poi devo andare anche dal medico a farmi prescrivere le solite cose da prendere, vabbè. Spero di dormire bene stanotte, se no non riuscirò ad andare. Sono a corto di certe pastiglie che sto finendo e quello non va interrotto, oppure è meno possibile. Va bene, ciao Anto, buonanotte, buon tutto, ci sentiamo e alla prossima. Vai Lu. Ciao Anto, buon lavoro per domani, da. Ciao ciao, a domani, ciao. Ciao ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao. Che c'è con Rondone? No, una registrazione. Ah, ho capito. Ok, da buonanotte a tutti, ciao ciao. Ma in diretta, Marco, quando sei? Chi è? Ma ricevitore? Ah, radioamatori ci sono, ci vedi? Boh. No, ho silenziato i canali, vabbè. Ehi, allora, quasi quasi, fra poco ora il film. Ci vedo anch'io, tanto sotto la sera, bene o male, che vado avanti e indietro da questa stanza. Ci sentiamo in migliori occasioni, che però non arrivano mai le migliori occasioni. Sempre peggio qua. Ehi, già arrivo, ora. Sono in partenza, purtroppo. Va bene, Marco, tanto io ti posso rispondere solo a cose, intermittenza, che sto mangiando. Sentiamo domani magari, eh? Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Sì, Eru. Già l'ho beccato, 4:31 e no. Sega. Perché io presumo che come casi, quando si chiama questo minuto, prima si è installato quello ultimo. Che non si può stare a fare educato, una povertà, praticamente, ma io non lo so. Sicuramente qualcuno, non puoi cominciare un animatore, sicuramente qualcuno che ha la radio e rompe le palle, con tutti, diciamo così cosa, va. Eia, è un macello, molti, vabbè, alcuni saranno anche radioattori, gente che non si può vedere da secoli lì in radio, e molti saranno pirattoni. Tanto ormai è tutto di pubblico dominio, cioè trovi lo scostamento di ponti, trovi il subtono, e quindi chi è senza scrupoli va e rompe le balle, mette portante. Ma non solo lì, anche in HF trovi portantisti con musica, tutto un bordello è diventato. Altro è pigliare fare l'esame, pigliare la patente amatoriale. Ma è fatto. Vabbè, già ascolto, già c'è gente che magari parlano di cose, insomma, molte volte parlano di cose che non interessano, ecco. Molte volte ci sono cose interessanti. Va bene, da chi ho? Fanno sbire adesso. Ehi, vabbè, bisogna parlare un po' di tutto, alle volte anche scazziare, perché no? Io naturalmente, se non so la materia, magari rimango all'ascolto. Poi a me è sempre più ascoltato, sì, pigliare le nuci, mi è sempre piaciuto più ascoltare che parlare, anche in 27, lo sai. E vabbè, se puoi intervenire magari. Sto parlando con voi perché non hai la, illuminativo, non lo puoi fare. Ok, dai Lu, buona serata, buon tutto e alla prossima fois. Ciao, buonanotte, ciao anche agli ascoltoni, ciao ciao a tutti. Ciao. Grazie, altrettanto. Aspetta, Gianfra, oggi sei mio, fermo lì. Senti questa modulazione, dimmi di quanti kilohertz parlato sono aperto. Questo è, vabbè, questo è un caso clinico però, questo apparato, questo c'ha il trimmer, è tutto aperto, sto usando l'MB più 5 a 7 di volume, dai. Vedi un po' com'è? Molto malvagio. Più 15, meno 15. Quindi rispetto ad altri è abbastanza largo. Caspita, io mi ricordo quello tipo president, era più 5 meno 5, questo più 15 meno 15. All'anima. Vabbè, ma questo è. L'ho acceso tanto per farlo lavorare, il mic, il microfono. Se non la roba lasciala ferma, per esempio questo 3009, no? L'altro. Era fermo un bel tempo, funzionava lo smitter. Oggi accendo, lampadina che fulminata, non si accende più, c'è lo smitter al buio, oscurato. Mi tocca smontare il apparato e cambiare la lampadina o mettere il LED. Sì, va bene, non ci vuole molto a cambiarla quella. Ci metti un LED e sei a posto. E vabbè, è sempre un po' seccante, però porca miseria, anche perché l'avevo già cambiata la lampadina. L'avevo già cambiata tempo fa. Boh. E non so nemmeno dove ho messo i ricambi. Li avevo presi da Fusaro all'epoca, quando li avevo presi io mi ha detto che erano anche le ultime lampadine di quel tipo che aveva. A meno che non le abbia riordinate, sono da qualche parte, ma dove? E qua è un caos, qua sono riuscito a perdere un rosmetro accordatore che piccolo non è, dell'MFJ, è scomparso nel nulla, è stato inghiottito da un buco nero, un wormhole, non so. Qualche fantasma che magari le serviva, ma guarda, ci metti un LED bianco con ovviamente con una resistenza, perché quelle lampadine erano a 12 volt, ci puoi mettere anche due, tanto consumano la metà di quelle lampadine, non pure anche di meno, ci metti una bella resistenza da di rivole, da se metti quelli grandi da 300 ohm dovrebbe andare benissimo, forse anche di meno. Ecco, e stavo pensando se mettere il LED, si vedrebbe anche meglio, ti fa una luce più bianca, vabbè, un po' diverso dalla classica lampadina che ha una luce più calda, vediamo. Ok, questo lo uso raramente, so parecchio. Ripeto, rispetto a quello del display blu, al trimmer dell'M è tutto aperto. Poi vabbè, questo è il microfono che spinge, ma potrei spingere ancora di più, vediamo se arriviamo a più 20 meno 20. Adesso è a 10, vediamo un po', 1, 2, 3 prova, vediamo se arriviamo a più 20 meno 20 kHz. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, ci sei arrivato. Purtroppo non ho... vale a dire che sta prendendo due canali, dovrebbe corrispondere a due canali all'incirca. O uno o due canali, non me lo ricordo. Non c'ho quello grande, se no ti avrei detto dove va a finire, perché ho pescato una stazione che stavamo domando qua, che sembrava brincare. Iniziava, stava parlando sul 10, si sentiva sul 16, poi se ne andava sul 20 non so che cosa, poi andava, questa cosa camminava fino al 28, per finire sui 30 ovviamente così, insomma, un'armonica mobile. Non ce l'ho io con la fisarmonica. No comment. Io sono con la fisarmonica, vabbè, io da piccolo mi piaceva fare il cantante, adesso non lo posso fare più perché sono grande. meglio, così mi sento in tutto il mondo. Cambio! Ti faccio notare che io non ho detto nomi, però ci finiva in 30, insomma, da varie parti. Quindi andava avanti. Non ho fatto nomi comunque, per correttezza non si fanno. Anche perché poi, che me ne frega. Ti prendi. Ciao Gladio, comunque. Ti prendi un arco. Anche noi stavamo chiudendo, Claudio. Vediamo un po', una curiosità mia, ecco, io sono comodamente con le spalle sulla spalliera del divano, vediamo, se fosse un mic da palmo, vediamo, a 4, in base ai picchi dello smitter, così dovrebbe essere paragonabile a un microfono da palmo, vedo appena di picchi, sto parlando col volume di voce come prima. Vediamo un po', sto uscendo di radio, perché qua lo smetterà al buio e non è che vedo un granché. Aumenta. Vedi che il diavolo mi tenta a aumentare. No, ma dico, sto uscendo così, mettendolo a 4, come se fosse un mic da palmo normale. 1, 2, 3. Ma cosa serve se c'è il microfono a tavolo, cazzo? Ma non ti capisco. Il microfono a tavolo si deve sentire, se usi il microfono normale, che problemi ci sono? Già fra, ho 40 anni di 27 io, capito? 40, attenzione, dal 74, forse più di 40 anni di 27, quindi sono molto attento anche se non si fanno nomi, capito? Vabbè, comunque, vuol dire che deve uscire così con la radio, ma a me poco meno a tutti. Beh, riprendete che vado a mangiare, ci sentiamo, ciao. Guarda, non ti ho capito molto bene, comunque ti ripeto, non me ne frega niente di chi è, di chi non è, infatti non faccio mai nomi, capito? Poi chi se ne frega, ognuno è fonte del suo male in un certo senso. E io sto guardando un'altra cosa. Non capisce mai. Ho avuto un attimino di coso, di amnesia. Certo, tu non capisci mai quando la gente parla. Usa un baracchino un po' più largo, siamo il 27, non è che io esco. Mai nessuno si è permesso di dirmi che esco male, quindi. L'unico che vuole abbassare e che non capisci se sempre tu, uso l'ultima volta io. Non so che dirti, vai Marcolì, dai, rimango in quel rix che vado a mangiare, ciao. No, è che io mi baso sulla tecnica, non sulle orecchie un po' grandi di qualcuno. E poi queste cose si studiano, non si dicono tanto per dire. Se ci sono armoniche, ci sono armoniche, punto. Le armoniche non ci devono essere. Non piace a quelle armoniche, se le tenga, chi se ne frega, peggio per lui, però non vada a dire questo sempre per la persona ipotetica che ha, poi 40 anni stai facendo un discorso, non ci azzecca una mazza. Anch'io sono anche più grande di te, quindi, però insomma, siamo capiti, no? Comunque non voglio fare polemiche, se tu e la stai facendo, non ho capito neanche perché. Non sto facendo polemiche io, lo so se è più grande a me, però non so se ti modulavi come modulavo io, quindi a certe cose io sono attento, ho detto c'è un'armonica, siccome me l'hai già detto una volta, non ti posso fare niente io, se c'è un'armonica che parte, ce ne sono molte di armoniche, sai quante armoniche sento io quando mi sposto, eppure, poco meno futti, non è un grosso danno, ho già fatto, capito, non ti sto assolutamente rimproverando, per carità, non la prenderà male, ti ho detto, l'ho capito che ho io, perché me l'hai già detto un'altra volta, però io dall'87 che uso sto radio, purtroppo il baracchino non so usare, così lo ti faccio, questa è la mia radio, così deve essere, chi l'accetta l'accetta e chi non l'accetta pazienza, tutti in base sulla tecnica, poi cosa pensi, che gli altri siano imbecilli? Non si basano sulla tecnica, c'è chi ha più dimestichezza, molta più attenzione nel fare le cose, c'è che chi come me entra in radio per fare due chiacchiere senza guardare. piace guardare con molta professionalità, su questo non ci piove, no. La tecnica io la lascio fare a chi la sa fare, io non la so fare, quindi tecnicamente rimango in silenzio, ma non è che uno me lo va a prendere per imbecille, perché imbecille non c'è nessuno, capito? E questo non è solo il discorso. Beh, chiudiamola qua, ciao. Sì, però non mi avete dato il controllo. Questo è eguagliabile a un mic da palmo come volume? Sì, ti ho detto, perché per me stai usando un microfono da palmo, punto. Poi puoi fare, Marco, quello che vuoi. Io con il microfono da tavolo li faccio sentire. Se poi devo usare il microfono da palmo, usa il microfono da palmo. Per me stai usando un microfono normale, cosa ti devo dire? Appunto, era la curiosità di sapere a quanto andava messo per avere una modulazione normale, tipo simile omologato, dai. Ed è a 4, a 4, sì, distanza a 30 cm. Ecco, una curiosità mia, sì. Vabbè, però il microfono da tavolo in realtà uno non è che ce l'ha da tavolo, deve essere a manetta, no, a sparatissimo. Uno lo può mettere anche normale. È una prova che ho voluto fare, tu lì. Va bene, com'era quel film? C'era una volta il West, l'uomo con l'armonica. No, quello era Charles Bronson, credo che fossero i Magnifici 7. No, no, confermo, c'era una volta il West, l'uomo con l'armonica. L'uomo con la fisarmonica. Va bene. Comunque, Marco, per me è un microfono normale. A te piace usarlo così, usarlo così. Io ti ripeto, ribadisco, io non ho un microfono normale sul tavolo, sono tutti amplificati, tutti microfoni ad alto livello professionali, dalla Kenwood e dalla Icom, quindi non ho niente da regolare io sul microfono, prendo l'alimentazione dalla radio, sono regolate dalla radio, quindi questa è la radio che sta spingendo così e io non la tocco. Ripeto, ribadisco, per me va bene così, poi ognuno può modulare con un microfono normale, con un'altra professionalità, con radio tecniche, radio fascini, l'importante è che ci sentiamo e facciamo due chiacchiere, ok? Dai, pronto la cena, riprendi Gianfra, per me corretti, ciao. Ok, vai a cenare, vai, ciao, ciao, ciao. Riprendi Marco. Ciao Claudio, ci sentiamo. Allora, dunque, 4, 5, 6, 7. Poi tanto questo adesso lo levo e starà altri 6 mesi chiuso in scatola. Questo è il mio BP5. Mi sa che lo vendo pure, anche se Gianni mi ha detto non lo vendere, tienitelo come mic di emergenza. Solo che sta questa roba ferma, porca miseria, sono soldi fermi. Ciao Luca, se sei ancora, se ancora all'ascolto. Io adesso mi accendo la TV, Gianfra, e vedo se c'è qualche croce di film da seguire stasera, che sia un po' interessante, come sempre. E certe sere, se ti basi solo sulla TV normale, quella gratis, Tamore Day, che poi la Rai non è nemmeno gratis, non c'è niente di avvincente, ok. Bene, buonasera a tutti, dai. Quelli ti per me. Vai Gianfra. Sì, ci dovrebbe essere NSS Los Angeles, se non sbaglio. Aspetta, ho capito, Los Angeles. C'è un po' di mare mosso. NCIS Los Angeles. Tu che sei un filmofilo, dimmi, è un telefilmofilo. Te la ricordi questa qua? No, ho sbagliato. Te lo ricordi? No, non sento quasi nulla Gianfra. Si capisce che c'è musica di fondo, ma non è capibile. Aumenta appena. Perché non sto usando il coso. Sto usando. Vediamo un po'. Te la mando. Ce l'hai presente? Oddio, mi ricorda qualcosa, ma non... No, è una cosa talmente... Non me la ricordo, no. mi suona qualcosa, ma non so cosa sia. È il solito telefilm degli anni 80, però italiano. Italiano dici? Dammi un indizio. Ti posso dare il nome direttamente. Questa canzone è intitolata Pronta Emergenza Via. La suonano un vecchio complesso che è il Pandemonium. Però il telefilm italiano, porca miseria, boh. Ma pensa che io mi ricordo persino Vobinda, la canzone Vobinda, ma non mi ricordo quella roba lì. Sono carini, durano poco, però Pronta Emergenza praticamente era una struttura a cui chiamavano i parienti, che metteva a disposizione tutti i mezzi delle varie interforze, quindi aeronautica, marina, carabinieri e compagnia cantante. Ed era una serie di telefilm, e allora si vedeva quello lì che diceva, guarda, mi hanno messo in macchina il radiotelefono, che all'epoca, nei primi anni 80, era una cosa che pochissimi avevano. E tu figurati che il telefono nella macchina del, credo, ministro degli interni l'aveva fatto mettere così, il primo, proprio il vero proprio telefono. Sto leggendo, sì, Pronto Emergenza è una serie televisiva italiana dell'80, scritta e diretta da Marcello Baldi, 12 episodi in collaborazione con le forze armate italiane. Proprio questa non so nemmeno se l'ho vista. Non so nemmeno se l'ho vista, magari su YouTube qualcosa si trova, vediamo, video. La vela battuta, Mediterraneo in pericolo, sì, qualcosa c'è. 28 minuti a puntata circa, magari gli do un'occhiata, dai, vediamo se mi si sblocca l'Alzheimer. Sì, tra l'altro su uno alla fine dei titoli ho visto che sono dei... come si dice, degli episodi che trattano dei problemi realmente successi, quindi ringrazio anche il Ministero della Difesa per la documentazione che ha dato. Non lo so se c'è su tutte le puntate questa dicitura, quindi sono cose realmente accadute. Ok, comunque guarda, sono carini, vanno visti, è la televisione degli anni 80 ovviamente, 70-80. Vedo, Rai 1, roba di produzione di Mamma Rai, Mamma Rai, vediamo così i commenti. Dice, grazie mille, è da molto tempo che cercavo gli episodi completi. Eia, dice, aderenti alla realtà operativa. Interessante, dai. Poche puntate, c'erano 3 o 4 puntate di quell'utente, e poi rischia pure che glielo rimuovano per il copyright. Infatti bisogna fare in fretta a guardarsi le poche puntate disponibili. Ok, vabbè Gianfranco, io adesso chiudo, spegno tutto, mi travaso nella poltrona davanti al televisore e vediamo cosa c'è. Ok, buona serata con tutto. E ci sentiamo. Ciao a tutti gli ascoltoni, ciao. Ok, anch'io termino l'ascolto. Lungo ascolto perché io ci sono sempre, però io spazzo, giro, vado in alto, in basso, a destra, a sinistra. E niente. Buon cos'era questa? Ah, è sempre la colazione, credo. Buona colazione, alle prossime. Faccia bene, naturalmente. Io sto ascoltando. Buonanotte a tutti. Anto, ci sei ancora, credo che avessi chiuso, forse mi sono distratto io, scusa se ti abbiamo lasciato in coso, in Corex. Cosa volevo dire? Porca miseria, già dimenticato. Ah no, volevo dirti Gianfranco che io è dalle 8 di stasera, dalle 8 di sera, credo di aver fatto già 4 QRT esecutivi e sono ancora qua. Certe volte una parola tira l'altra. Va bene, ciao, passa bene a tutti e sentiamo, ciao, Anto, riprendi. Buonanotte Giaffra, dopo di questo passaggio dammi un controllo perché ho cambiato l'antenna, tu sei l'ultimo che non ho chiesto. Buonanotte a tutti, ciao. Qua vai oltre il 9, dovrebbe essere un 9-10, non torna al 9-10, e niente, quindi va bene, dovresti essere aumentato, se non ricordo che è sempre intorno al 9. K, allora ho aumentato anche tu sei aumentato parecchio qua, se 9.20, oltre 9.20, quasi 9.25, bello pieno, pieno, pieno, prima era 9.20. Ok, dai, buonanotte a tutti, vuol dire che le migliorie già ci sono state, dai. Stavo ascoltando un pochettino poi, buonanotte. Ok, buonanotte, allora anche a te, alle prossime. Ci sentiamo, io sto scendendo sempre basso come mia tradizione, sempre... sono sempre andato intorno ai 4 watt, 3 watt, e quindi è positivo che mi ricevi forte. Buona serata ancora, ciao a tutti e ciao anche a chi è in ascolto.